VIP frate, epidemia nelle strade. Tirate giù le grate, tirate giù lo sguardo se ci incontrate. Tiriamo fino al filtro se la passate. Se la passate. Mad gang, best rap. Riconosci questi MC? Solo hitman, mad fam. Non puoi fottere col team. Se alle serate impazzisci capisco, lo so, che spaccano tutti i miei bro. Se sono in azione intuisci all'ascolto, capisci che no, perdonerò. Di sta merda che fuori esce dalle casse. Ovvio che ci cattura, noi lasciamo troppe tracce. Bello fottiti, tu non fotti qui. Michelino mica viene da OC. Porto un flow così, ogni giorno più big. Non sarò tipo chic, ma le tipe come gridano? Sì. È un dato di fatto, questa squadra non la fermi quando parte all'attacco. Mi danno del matto, gli rispondo esatto. Questo è un mondo malato, sebbene ognuno sia vaccinato. Ovunque ti giri, vedi un nuovo contagiato. Con la febbre del cash, ho strafatto di stress. L'epidemia non si frena, come antidoto noi facciamo rap. Finché ce n'è, non ci metti in quarantena. Mando sti rapper nel panico, non c'entra l'abito. So che mi amano, infame l'immagino. Perché navigo solo, sto defilato versalico. Ozza la fra, la famiglia, la candemia, le pi, senti lo slang. Fumo coi soci, scami, penso che porti reali ti morda sul sacco. Qualcuno investiga sul mio clan. Tu vuoi dati stile hacker con un tasto del joypad. La tua bitch, la Sezan o da Sis, mi da un kiss. Sono strip dentro il club, io e i miei bra dentro un film. Io non fingo, io non vinco, tu di king, sei convinto. Mi sono distinto, agisco distinto. Fumo rapper come Erba Kingston. Devo tutto Homer Simpson. Hai taciuto, hai provveduto a tapparti quel buco. Resti sperduto e parli con Wilson. L'epidemia è contagiosa, si contano i danni. Zero gli inganni, voi mi affanni. Per chi osa do lezioni da anni. Si svaria, Mad Gang, cambiano i programmi. Manca l'aria, voglio aria Giovanni. Quando entro baraonda tipo sparatoria. Che storia, la mente di fuma per noia. Otto bare non mi bastano come non bastano 8 colpi dal boia. Ho la testa sul collo, la tua tipa sul cazzo. Pensi che stai volando, ma cadere è tutt'altro che fare un balzo. Io ti schiaccio, scarafaggio, Gio Di Maggio, fuori campo. Se non fotti con il mio crew, sposta pesi tipo gru, Corey gru, mangia tutto, mangi il bus, a di voodoo, ma chi del gru, tocca al nero, epidemia, top davvero. Mad Gang, tocchi mio frate, ti passa la voglia, prova a passare la soglia, prendi manate come a non si muove una foglia. Bolzaneto è il mio barrio, sono la pace, Carlito Stevez, presidente del flow, Simo Florentino Perez. Pam pam, ciao fra, la mia scimmia mi parla. Io dal teorema di Roll ho imparato come rollarla. Giusto come inizio per no calci questo tizio che parlava come vizio, ora non parla più, questo è il giorno del giudizio. Welcome in my hood. La mia voce fra arriva prima di ogni frase già fatta. Tipo arrivi tutto di corsa ma dai del fumo di piastra. La tua merda non spacca, ci lascia solo la banfa. È come prendersi una Bugatti che c'ha il motore di un panda. Cerco fotta, no show, tutti infami. Niente sosta, cobro, lo che scoppia, boom boom. Fosse devastante, ci si arrangia alle domande. Non rimpiango che ho mollato, tanto sempre tra le palle. Ehi bro, mitico ghost flow, poltergeist. Battermi impossibile come Cookie Mama contro Walter White. Oh shit, la gang, manate my man, Ale. R.I.P. bitch, kill, la tua clip, epidemia è B. Ossimoro lirico, ora te lo spiego. È come dire crow, è chiaro che sei negro. Per chi sta qua sono miseria. Voglio la vita di un pizzerian. Brutti posti, flow dei mostri. Top player Lewandowski. Scrivo fino a che non muoio, Charles Bukowski. Non fare il fiero, ti credi sul serio, Mac Miller. Tu fai ridere, Ben Stiller. Zero scuse, porte chiuse per certi scemi. Non vivo la vita pensando che sia Montepremi, lo vedi? Fortuna che certi bastardi me li lascio dietro. Intendo legati dai polsi dentro al bagagliaio di una station wagon.